vedi, io sono ancora in piedi, nonostante quell'idea che hai di me. Ridi, ma il vuoto dei colori difficile andar via. Sempre meglio che subire un'idea. Credevo nelle favole. dei colori.